Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Lui voleva assolutamente trovarsi una moglie italiana, voleva comunque rifarsi una vita, perché lui sosteneva di essere separato, di avere un bambino in un college a Londra, quindi lui aveva sempre atteggiamenti molto galanti e molto carini nei miei confronti. Mi ha invitato ad andare a casa sua a New York per il giorno del ringraziamento. Mi ha scritto che verso i primi di novembre gli avrebbero dato una licenza che sarebbe durata tipo 4 mesi e che lui avrebbe voluto venire in Italia per conoscermi, conoscere i miei figli e instaurare un rapporto tra marito e moglie. Cioè era una favola, cioè in poche parole io pensavo di vivere in un altro mondo in quel periodo. Care e tenere amiche che mi ascoltate, oggi la trasmissione è dedicata a voi. Definisco amiche quelle che più o meno appartengono alla mia generazione, lievemente magari più giovani. Tutte le donne che vanno in un arco di età che va dai 35 ai 55 anni, forse anche più, non dico di no. Donne che stranamente, improvvisamente, una volta si vedono contattare via Facebook da un giovane aitante o da un uomo molto disponibile che non è nella loro cerchia di amicizie consueta. Una persona fantastica, discreta, gentile, col quale lentamente, gradualmente si lasciano prendere da una confidenza sempre maggiore. Un uomo che sa farci molto bene, conosce i loro punti deboli, conosce la loro solitudine, conosce il loro desiderio comunque di incontrare uomini decenti. Guardate, non si parla di mercimonio sessuale, si parla proprio di vera e propria storia amorosa. Solo che alla fine, ve la faccio breve per farvi capire, viene fuori che in realtà è un'organizzazione criminale che ha sede nei paesi dell'est, ma molto di più nel centro Africa, soprattutto anche in paesi come il Ghana, dove ci sono dei call center, dove c'è scritto non possono essere usati per fare la truffa, l'operazione numero tal dei tali, che corrisponde appunto a quella che viene definita la truffa romantica. Sembra difficile che tra i tanti pericoli della rete che vengono ogni giorno proclamati ci sia anche quello della truffa romantica, eppure c'è. Chi finisce vittima di una truffa romantica viene spolpato lentamente del suo denaro, perché lentamente o sotto forma di ricatto o sotto forma di sussidio amoroso per aiutare un bravo giovane che vive in Africa, che vorrebbe raggiungerti, che verrebbe da te, che non anela altro che riunirsi con l'amore che avete fatto maturare in tanti mesi di chat appassionata. Voi mandate soldi, poi improvvisamente, non so, si perde le valigie, gli viene la diarrea, il volo non è partito, insomma c'è sempre un problema. E già si parla, e questa la prima trasmissione in Italia che ne ha parlato e chi l'ha visto, che ha seguito molti di questi iter, di vendicatrici romantiche che partono in Africa alla ricerca dell'uomo che le ha illuse e le ha anche spolpate. 800240024, oggi è la volta di insegnarvi a difendervi dalle truffe romantiche, quelle toste, non quelle che alla fine ne rimanete un po' male, un po' deluse, è una piccola ammaccatura d'amore da sanare. No, qua rischiate molto peggio, ma ve lo dico sul serio, a tra poco. Melog, cronache meridiane. Lui mi diceva che era un soldato, era un generale. Io ero una donna molto istruita, intelligente, colta, bella, e mi diceva: non so come mai una donna bella così come te è sola. Ero felice perché dicevo: che bello. Ho detto: non mi sembra vero di parlare dall'altra parte del mondo con una persona, no? Non mi sembrava irreale. Dicevo: strano, sta succedendo a me. Come siamo venuti a conoscenza delle truffe romantiche? Ci ha scritto un'ascoltatrice, Simona, raccontandoci nei particolari quello che accade. Il truffatore si insinua nella vita quotidiana, occupando uno spazio a via maggiore, andando a colmare solitudini, insicurezza, alleviando frustrazioni e debolezze e modificando anche la struttura delle giornate e dei ritmi sonno-veglia. Sì, perché stando in Africa ti chiama in orari improbabili, tu la notte stai alzata a parlare d'amore con generali, poliziotti, piloti d'aereo, hanno sempre dei lavori fantastici, come al tempo dei romanzi di Liala, che le fanciulle palpitavano sempre per piloti d'aereo. Questo percorso prevede anche da parte del truffatore una serie di confidenze e dettagliate informazioni che fanno la preludio alla successiva trappola che porta alla richiesta di denaro. A questo punto la vittima, dipendente a livello psicologico del suo carnefice, come la tossicodipendente, dà la sua dose e quindi comincia, non vede che è una truffa, è completamente partita, e quindi comincia a mandare soldi. Possono cominciare da centinaia di euro fino a decine di migliaia. Buona parte delle vittime trascorreranno il resto della vita a pagare debiti in contesti di isolamento e solitudine che non riescono a superare per timore del giudizio dei familiari e della gogna sociale. Certo, una donna si vergogna di essere caduta in una trappola amorosa, si vergogna della sua debolezza, si vergogna di essere presa in giro, del fatto, diciamo, ma che pensavi, che il pilota africano veniva proprio per te, ma chi ti credi d'essere, ti sei fatta un sogno d'amore e sei rimasta sgrassata. Oggi di queste situazioni vogliamo parlare. Ho subito al telefono un'amica. Dico perché l'ho chiamata una mia amica, perché proprio mentre preparavamo questa trasmissione ho guardato il suo profilo Facebook e l'ho vista pronta lì. Sembrava, per fortuna è donna accorta, sembrava però la vittima prediletta per la truffa amorosa. È una bella donna, molto bella, ha 49 anni, sposata con due figli, però come tutte le donne ogni tanto gli piace divagare su Facebook. Buongiorno Cristiana. Buongiorno Gianluca, ciao. Allora, descrivi quello che hai scritto giorni fa sul tuo profilo Facebook e racconta la storia. Allora, mi è arrivata la richiesta di amicizia di un ragazzo bellissimo, un modello, tutto palestrato, pieno di addominali, una roba... A dorso nudo praticamente, proprio allettante. Sì, a dorso nudo, bello, sì, con questi sorrisi, a 36.000 denti, proprio una cosa... E ho trovato abbastanza curioso, anche perché ho controllato e non avevamo alcun amico in comune, quindi io comunque, come regola che mi do di base, è non accettare amicizie da sconosciuti che non abbiano almeno un amico in comune con i miei. Quindi alla fine ho cassato la richiesta, perché ho detto, vabbè, ma questo che cosa può volere? Però a un certo punto ho pensato, questo sarà sicuramente un gigolò, magari che cerca vittime in internet. Cerca, ti sentivi, signore, ti sentivi milfizzata, diciamo. Mi sentivo, scusami? Milfizzata, cioè dicevi, trovato la signora, sì, piacente, poi... immagina che magari... Mi sono sentita un po' carampana, a dire la verità, più che milf, però ho capito subito che insomma non c'era nulla di buono e nulla di serio dietro a questa situazione. E tu hai fatto esattamente quello che bisogna fare, hai diffuso la foto in rete, dice guardate, mi cerca questo, tutti a dirti, ah ma dai che bello, le amiche, beata te, simpatico, così... Qualcuno mi ha detto, ma perché non ne hai approfittato? Ma perché no, innanzitutto, e poi perché sono chiaramente truffe o comunque sono chiaramente persone interessate ad altro. Tu hai capito che non era esattamente un bel ragazzo interessato, aveva visto le tue foto, sei una bella donna e ti cercava per quello, l'hai capito subito? Ma sì, ma ovviamente, è talmente evidente, un 25enne, ma un 25enne come quello, ma figurati se si interessa a una signora come me, ma insomma non... Adesso, non farla modesta. Allora, ferma un attimo, ascolta bene, resta in ascolto perché, diciamo, quello che in questo momento diciamo per te, lo diciamo per un'infinità di ascoltatrici, che invito a chiamarci, a raccontare. Vi siete trovate voi nella situazione di Cristiana? Abbiamo presente la foto di un bellissimo uomo affascinante, non fa parte degli amici, dei vostri amici, vi sentite lusingate, perché essere umano giustamente sente lusingata, ma questo avrà visto la mia foto, gli sarò piaciuta, magari è simpatico, è interessante. E cosa accade a quel punto? Dottoressa Anna Pollaccia, buongiorno. Buongiorno. Psicologa dell'ACTA, che è l'associazione contro le truffe affettive. È talmente diffuso il fenomeno, è talmente ormai capillare, c'è un'associazione appunto che aiuta le donne a guardarsi da questo fenomeno. Secondo lei Cristiana, l'amica Cristiana, rischiava di entrare in una truffa affettiva se avesse dato spago al giovane palestrato? Molto facilmente sì, poteva entrare in una truffa affettiva. per la mia esperienza, sì, perché una volta preso il contatto con questi personaggi che hanno una grande capacità relazionale, a mio avviso sono degli psicologi scafati, o perlomeno sono sicuramente formati da degli psicologi di una certa esperienza, il rischio di cadere in queste trappole è molto elevato. Ecco, mi spiega esattamente come avviene, qual è la tipologia, la vittima prediletta? Io conosco la mia amica, però immagino che siano donne che in qualche maniera, non dico si appalesano come donne in cerca, perché non è questo, ma donne che uno può immaginare appartengono a un target generazionale, per cui potrebbero essere lusingate se un uomo molto più giovane e le contatta. Ma guardi, intanto non necessariamente si presentano come uomini molto più giovani. Io ho fatto l'esperienza personalmente, e quello che si è presentato a me, che inizialmente ha presentato un falso profilo con una foto da giovanotto, alla quale io ho risposto: per me sei troppo giovane, arrivederci, grazie, mi ha poi detto: no, guarda che io ho 63 anni, mandandomi una foto invecchiata, quindi non è detto. Il target non era sempre la stessa, persona? La stessa persona, esattamente la stessa persona. E il target è di diciamo generazionale, e viene ricavato fra le donne tra i 40 e i 65 anni più o meno, non necessariamente single. La caratteristica che le accomuna è il senso di solitudine interiore. E come fanno a coglierlo guardando i profili Facebook? È possibile, io le dico, io sono del mestiere, se io provo a visionare profili Facebook di persone che non conosco, sono in grado, leggendo fra le righe, di capire se queste persone sono sole. Ad esempio, dal numero di contatti che hanno su Facebook, dalle cose che postano, dai commenti che fanno, dalle frequenze anche in cui scrivono, magari, cioè, se sta molto su Facebook evidentemente è altro da fare, non altro da fare. Sì, questo, ma questa è una delle cose più banali. Loro utilizzano queste tecniche così di analisi, che sono analoghe a quelle che vengono utilizzate dalle grandi aziende per stabilire quali sono i nostri gusti, e sulla base dei nostri gusti ci inviano le pubblicità. Quindi diciamo c'è una prima schiera di truffatori che fa l'analisi delle vittime. Esattamente. Ma in questo caso, scusi, noi stiamo parlando di vittime italiane, visto che il fenomeno se parte dal Ghana poi è arrivato in Italia. Ci sono, diciamo, degli emissari italiani che lavorano sull'Italia, perché non credo che un giovane ghanese mandi le foto finte a Cristiano e poi comincia a cercarla lui dal Ghana, no? Ma guardi, siccome i registri comunicativi non sono sempre gli stessi, dipende dalle competenze linguistiche della vittima, nel senso che se la vittima è in grado di parlare il francese oppure l'inglese, perché non provengono solo dal Ghana queste truffe, provengono da molti paesi del Centro Africa, quali la Nigeria, che è un paese anglofono ad esempio, allora i contatti sono telefonici, in caso contrario i contatti avvengono tramite chat, quindi sono solo scritti sostanzialmente. I profili sono falsi, sono dei fake totali naturalmente. Sì, assolutamente, sempre falsi, rigorosamente falsi. Dall'altra parte chi ci sta invece? Dall'altra parte ci stanno mediamente dei ragazzi molto giovani, neri, che sono stati formati, sono diciamo un equivalente un po' più evoluto e raffinato dei centralinisti. È come un call center, solo che invece che venderti le bollette per la luce ti vendono, esatto, l'illusione amorosa, quindi sono formati. Esattamente, e addirittura quando lavorano, tra virgolette, non sempre sono è la stessa persona a stare in contatto con le vittime prescelte, si turnano, ci sono dei veri e propri turni di lavoro. Quindi c'è un dossieraggio, però, perché dovrà avere la scheda segnaletica della persona, esatto, e quindi esatto, riprendere il punto in cui saranno lasciati la volta prima. Sì, sì, e spesso e volentieri, per evitare il rischio di commettere errori, ti chiamano con dei nomignoli tipo Honey, Darling, il tuo nome lo scrivono o lo pronunciano poco per evitare il rischio di sbagliare. Come un uomo, come un marpione si comporta con le amanti, che le chiama sempre tesoro, amore, per non sbagliarsi, esatto, poi con la moglie. Esatto. Allora, Cristiana, ti ho fatto ascoltare fino adesso, Rivedi qualcuna delle caratteristiche del tuo navigare in Facebook per essere stata considerata possibile vittima da queste persone? Ma no, diciamo di no, cioè nel senso io non mi definisco una persona sola, poi non sto molto su Facebook. Non è nemmeno il tempo per respirare di solito. Sì, do uno sguardo, ogni tanto scrivo qualcosa, commento. Poi tu commenti i fatti del giorno, sei presente diciamo nel social? Sì, quello sì. Quello sì, però non credo di dare l'idea di una donna sola alla ricerca di un accompagnatore o cose del genere, però penso che queste persone più o meno vadano un po' a caso, credo, cioè guardino un po' i profili, vedano la foto della donna, probabilmente riescono a capire se, non so se riescono a leggere se è sposata o meno, eccetera, per cui penso che sia diciamo più un tentativo. Potrebbero anche risalire diciamo dalle amiche, prendono un'amica, cominciano a vedere tutte le amiche di una persona che ha tutte le caratteristiche e cominciano a scremare questa cosa qua. Anche, certo. La foto ti hanno mandato, c'era anche qualche messaggio, era semplice richiesta d'amicizia con una foto? No, era solo la classica richiesta d'amicizia da parte di questo ragazzo. Come si chiamava? Lo possiamo dire il nome? Dunque, Mark Lopez William, che mi sembra suonava anche abbastanza pazzo, non lo so, mi ha dato subito l'idea di essere una cosa tarocca. A parte la foto di questo ragazzo, ma poi ti dico, ho visto subito il suo profilo, ho guardato tra gli amici, nessun amico in comune, e l'ho cassato immediatamente. E il suo profilo come si presentava? Cosa c'era nel suo profilo? Ma c'erano molte donne tra le sue amiche e tra l'altro anche non proprio giovanissime, per cui questa cosa non mi è piaciuta, cioè devo dire, questo che fa è uno che appunto cerca le signore di una certa età in rete, e perché le cerca? Cioè, ovviamente, appunto, io ho pensato subito, è un gigolò. Cioè, ah, tu pensavi a una prestazione professionale, che sarebbe stato molto meno grave, perché almeno era esplicito. Sì. No, sì, ma neanche troppo, insomma, quindi poi sai, non ci ho pensato più di tanto, ho cancellato, cioè ho eliminato la richiesta e poi parlando con degli amici mi hanno detto, ma stai attenta, cioè hai fatto bene, perché sono spesso persone che mettono su delle truffe sentimentali, per cui... Quindi gira diciamo, fra le tue amiche ne hai sentito già parlare di questa cosa? Me l'hanno già parlato, sì, non persone che ci sono capitate direttamente, ma persone che hanno saputo da amiche, eccetera. Quindi, insomma, poi mi hanno spiegato, mi hanno detto, occhio, che questa gente che poi ti ricatta alla fine se fai qualcosa di strano, se ci chatti un po'. E quindi ben felice di non aver accettato. Vabbè, intanto tu, Cristiana, grazie della testimonianza e siamo contenti di averti, non dico messo in guardia, che eri già stata salvaguardata da te stessa, però ci è servito come esempio. 800240024, tra un istante riprenderemo con la dottoressa Anna Pollaccia, poi ci spiegherà esattamente nel particolare come funziona tutto l'iter seduttivo e come funziona poi la parte dell'estorsione, come fanno a prendere soldi, a chiedere soldi, attraverso quali meccanismi. Vedrete, sarà molto interessante. A tra poco. Fineco, la banca che semplifica la banca, vi presenta. Benvenuto nella tua auto. Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto. Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Melog. Cronache meridiane. 800240024. È un tema difficile, so che è un tema difficile, so che è un tema che non facilmente riuscirò a trattare in maniera ampia con gli ascoltatori, con le ascoltatrici soprattutto, ma se avete amiche, diciamo così, che sono entrate in questa rete, raccontatecelo, diteci, date degli elementi importanti per non finire in una trappola che è doppiamente subdola, perché da una parte attenta al vostro portafoglio, dall'altra parte gioca con i vostri sentimenti. È inutile che gli uomini facciano i loro commenti dicendo se lo meritano, sono delle stupide, la stupidaggine va tassata, oppure ancora peggio, anche gli Zulu hanno capito quanto l'italiano è credulone e stupido. Queste sono truffe che fanno in tutto il mondo. Gli Zulu, se è lei che pensa agli Zulu, sono giovani del Ghana che, esattamente come i nostri giovani vanno a lavorare nei call center, vanno a lavorare in questi call center, e come i nostri giovani prendono in giro le anziane signore facendogli dire al telefono il numero della loro bolletta, appiccicandogli poi dei conti salatissimi per un'infinità di intermediari, abbiamo già parlato, per cui le società poi non sono responsabili. Questi giocano con i sentimenti, non è che le italiane sono più credulone degli altri. L'essere umano in sé è portato a pensare che se una persona ti rivolge sentimenti profondi, parole importanti, si occupa di te, si dedica a te, sei propenso a pensare a una persona che a te ci tenga. Tutta la storia dell'umanità è basata su questo grande strumento di affrancamento culturale rispetto al saltarsi addosso, procreare e scappare via, che è quello di avere rapporti articolati basati appunto sul sentimento, quindi basati anche sulla contraffazione. Ogni sentimento in sé ha un minimo di contraffazione, qui l'usano al massimo. Questo lo dico per quelli che mi parlano delle loro avventure con carampane assatanate. Buon per voi. Leonardo, buongiorno. No, io ho sentito la vostra trasmissione, anzi faccio i miei auguri per come la conducete. E questo qua non era del Ghana o africano, eccetera, ma era un italiano che non chiedeva ovviamente soldi, ma approccio sentimentale da questa signora, tanto da indurla addirittura a lasciare il proprio marito e andare a vivere con lui. Ma dov'è la truffa? E dov'è la truffa? No, non era una truffa, per carità, si stava parlando di Facebook. Un seduttore questo? Vabbè, un normale seduttore. Esatto, era un normale seduttore. Poi fa parte delle regole del gioco queste. Qua diciamo la seduzione è mirata all'estorsione, un'altra cosa. No, ecco, io non ho seguito dall'inizio, quindi ho sentito Facebook, eccetera. Qui parliamo di persone che giocano lo strumento alla seduzione per estorcere denaro, non sono interessati poi a avere un rapporto con la persona, anzi lo sfuggono il rapporto. Quando poi la persona dice incontriamoci, inventano scuse, perché loro sono un'associazione a delinquere finalizzata alla truffa, non finalizzata alla conquista amorosa. Giorgio, sentiamo qua. Giorgio. Sì, buongiorno Nicoletti. Sì, buongiorno Giorgio. Allora, oggi ci tratta un argomento su cui stiamo ridendo ormai da mesi con insomma nel gruppo di amici, eccetera. Perché non è che sia poi tantissimo da ridere, perché sono cose dolorose, diciamo. Non è sì, che... però vengono, diciamo che allora chi ha un po' di esperienza, dopo un po' arriva a capire che cosa stiamo parlando, cioè di vere e proprie truffe, anche perché sono abbastanza, diciamo, palesi. Mi faccia qualche esempio, sai, quando, nell'illusione amorosa guardi, nulla è palese. Quotidianamente mi arriva almeno una richiesta di amicizia da parte di fotomodelle, io ne ho 54, diciamo che insomma mi difendo, ma non sono sicuramente un modello. Vabbè, quelle sì, arrivano a tutti noi, certo, io non ci avevo pensato. Esatto. Arrivano queste donne bellissime, ti chiedono l'amicizia e tu sei quasi lusingato, ma se ma minimamente sei scafato lo capisci che non è roba per te. Ecco. La cosa che mi ha più divertito è stato che molte amiche mi dicono che, soprattutto negli ultimi mesi, le richieste di amicizia arrivano da sedicenti militari americani, come se magari, non so, l'uomo in divisa in qualche maniera avesse un più appilo o desse più sicurezza. Quindi lei diciamo certifica quello che stiamo già dicendo, che arrivano richieste di amicizia da parte di uomini in divisa. Sentiamo la dottoressa Anna Pollaccia, che ho sentito già prima, che è psicologa dell'ACTA, c'è un'associazione contro le truffe affettive, che proprio danno, penso, supporto alle persone che avessero il dubbio di essere entrati in questa rete. Il fascino a divisa fa parte delle metodologie di approccio, dottoressa? Ma è una delle metodologie, la presentazione del ruolo di chi approccia le vittime è basato sulla personalità delle vittime, sullo studio del profilo della personalità delle vittime, quindi se si evince che a una donna non piacciono le divise, sicuramente non si presenterà un militare. Certo, se mette messaggi pacifisti contro la guerra e contro la violenza, non sarà quella. L'adeguamento totale, insomma, no? E si raffina in itinere man mano che la relazione, la comunicazione fra i due si diventa confidenziale, si evolve le faccio un esempio, c'è un caso in cui si parlava delle difficoltà e allora dei test di personalità e allora viene fuori, ma qual è il significato di un muro? E il truffatore come esempio a me ha portato il mito della caverna di Platone, perché ha capito che io mi occupavo di filosofia, di psicologia e che ero una persona informata. Però mi aiuti, dottoressa, mi riesce un po' difficile capire come un ragazzo del Ghana, per quanto formato, citi la caverna di Platone, anche se è una citazione abbastanza elementare rispetto alla complessità della filosofia. Non per un ragazzo del Ghana o della Nigeria. Quello dico, ma come fa arrivare, diciamo, chi dà gli strumenti per avere questa raffinatezza nella risposta? Allora, evidentemente queste persone leggono, hanno e al telefono si sente spesso anche il fruscio dei fogli di carta, questi. Ma nemmeno Wikipedia, proprio pezzi di carta. Pezzi di carta, letteralmente pezzi di carta, hanno delle relazioni a cui si rifanno e leggono. Oh, sentiamo un attimo, dottoressa. Priscilla, buongiorno. Oh, finalmente chiama una vittima, ha avuto il coraggio. Salve Nicoletti. Grazie, perché so che è difficile raccontare queste cose, perché poi difficile, però insomma bisogna dirlo perché è un fenomeno che è proprio in espansione, non solo in Italia ma anche in Francia. Allora racconti la sua storia. Tra l'altro io vivo. Racconti la sua storia, Priscilla. Io ero iscritta su un sito di incontri e sono stata contattata da una persona, da un uomo che diceva di avere 50 anni, di essere un militare che era in Afghanistan per lavoro. E abbiamo cominciato così a discutere, mi mandava delle foto che sembravano abbastanza, insomma, proprio corrispondevano all'uomo di 50 anni, ecco. Lui in divisa, lui in zona d'operazione oppure? Sì, beh, a me proprio sempre in divisa, con foto con i carri armati. Con, che nazionalità con... era? Lui si spacciava. Lui diceva di essere francese. E quando scriveva, ecco, i primi dubbi, diciamo così, li ho avuti quando lui cominciava a scrivere, cioè quando scriveva un francese molto scorretto, ecco. Io pure essendo italiana scrivo molto bene. Non era un francese corretto, sì. No. E poi abbiamo cominciato a sentirci anche per telefono. E come parlava? Come parlava? Ecco, la voce era proprio la voce di un nero. Sentiva, che un ragazzo africano l'aveva capito, ecco. Sì, sì. Però lui non gli aveva detto questo particolare, non gli aveva detto. Sì, io gliel'ho detto e lui negava. All'inizio mi ha sempre detto: ma sai, c'ho questa voce cavernosa. Però si capiva, ecco, sì. Perché sì, perché fumo molto. E a un certo punto poi avevamo preso accordi per venire, perché lui da subito aveva cominciato: ma io ti amo, ma io sei la donna della mia vita, così. Io dico: ma come fai? Ma neanche ci siamo mai visti. Quindi lei era rimasta piuttosto distaccata, non era stata subito entrata nella rete amorosa? No, subito no, però poi dopo sì, con le parole. Era bravo comunque, vita, onestamente Priscilla, era bravo, sì, sapeva era farci. Era sempre presente, mi chiamava, mi si interessava alla mia vita, ai miei figli, insomma. Cioè quello che una donna si aspetta che faccia un uomo. Sì, anche se non è che aspettavo proprio, non ero proprio lì che pendevo dalle sue labbra, diciamo, perché si occupasse di mio figlio, della mia famiglia. Però era rimasta piacevolmente, era un bel amico, diciamo così. Sì, una persona con la quale si parlava benissimo di tutto, si interessava molto. Quanto tempo le dedicava, proprio in termine numerico, facciamo una media della giornata, quanto tempo? Anche 4-5, ci sentivamo 4-5 volte al giorno, di sera, di notte soprattutto. E quando io gli chiedevo, insomma, se potevo usare la videocamera, perché lui mi ha chiesto di vedermi su Skype, che mi sembrava io logico, collegata su Skype, però non lo vedevo, e dicevo: ma come mai io non ti vedo? Non funzionava. E lui diceva: no, perché non, la camera non posso, sai, siamo in missione, non posso, non poteva mai. Lei ha mai avuto l'impressione, quando chattava, non quando ci parlava, che potessero essere anche altre persone, come diceva la dottoressa dell'ACTA, che magari qualche volta si scambiavano il testimone? Allora, io una volta ho ricevuto una... Lui mi ha detto che avrebbe dovuto cambiare telefono per questioni di sicurezza, numero di telefono, e mi ha dato il nuovo numero. Però sono stata contattata dal vecchio numero e con una voce di un'altra persona. Che già sono sempre io. Sì, e lui mi diceva: ma come stai, Priscilla? Allora dimmi. Io dicevo: ma chi sei? Ma ma come, sono io, sono Frank, perché lui si faceva chiamare Frank, sono Frank. Dice, no, ma tu non sei Frank, la tua voce è diversa. Poi subito ha chiuso. Io ho raccontato a lui questa storia, ma ci sarà stata un'interferenza, insomma, ma la cosa era molto molto... Allora fermo un attimo, Priscilla, perché sì, la tua storia è molto interessante, continuerai a raccontarcela. Su una domanda, dottoressa Pollaccia, in questo caso è il tipico caso in cui saranno scambiati la telefonata, c'era stato un piccolo errore nello staff. Le cose sono fatte in modo molto più raffinato, nel senso che spesso usano i distorsori vocali per confondere, sì assolutamente, per confondere chi sta dall'altra parte del telefono. Anche perché la voce di un africano è abbastanza riconoscibile, diciamo, senza entrare nelle pregiudiziali, si capisce, un ragazzo non del sempre, Ghana si capisce. Non sempre. È così comprensibile, non sempre si capisce perché in qualche modo viene modificata, non è sempre la classica voce roca, a volte ci sono delle voci molto più morbide che... Fermiamoci un attimo, ci stanno dicendo le nostre amiche e le nostre testimoni che in realtà è un'organizzazione molto raffinata, non lavorano a caso, hanno addirittura dei distorsori vocali per cambiare la voce. Ci fermiamo un istante, tra poco. Melog, cronache meridiane. Stiamo parlando delle truffe amorose. Stavo parlando con Priscilla, che ci raccontava l'iter di una storia che poteva finire in una truffa amorosa. Lei non è stata truffata poi alla fine, Priscilla? È riuscita a sottrarsi in tempo? No, io sono stata truffata, ma... perché quando la storia ha cominciato a prendermi, diciamo, questo interesse di questa persona verso di me, lui mi ha cominciato a raccontare che era stato spostato dall'Afghanistan, era andato in un altro paese e che si trovava in un orfanotrofio a visitare dei bambini, che ci aveva la pena nel cuore, li voleva aiutare, e mi ha chiesto un contributo che io ho inviato. Che infame, proprio giocare anche sul bambino orfanello. Sì, ma anche con le fotografie di... Ma le mandare le foto dei poveri orfanelli, sì, macilenti? Guardi, signor Nicoletti, io le voglio naturalmente, poi mi ha chiesto altri soldi che io non ho mandato, perché... Quanto l'ha portato via all'inizio? 900 euro. Per bambini? Sì. Ma la storia è andata subito, guarda, quella vita le dà dei segnali, perché nel momento in cui facevo questo pagamento, tra l'altro con un sistema molto complesso, un sistema francese, per cui non puoi risalire alla persona a cui le stai mandando. Ah no, non usava la semplicemente persona... la carta di credito? In modo che con i soldi liquidi si va al tabaccaio, si paga, certo, e si fanno come si inviano questi soldi e tu non sai dove. La persona, il tabaccaio che mi faceva questo servizio, mi diceva, ma signora, ma questi soldi lei a chi li, mi scusi se mi permetto, ma a chi li sta mandando? Io dicevo, no, a un amico, ha bisogno. E mi ha detto, ma lo sa che ci sono un sacco di truffe via internet di queste cose? Io ho detto, sì, ma questo è un mio amico. Ma sono stata una stupida. Comunque. Vabbè, Priscilla, può succedere a tutti. No, eh? Sì, può succedere, infatti. Se a me mi chiamasse un'amica, mi chiedono 100 euro, glieli darei, non c'ho problemi. Sì, ma l'ho fatto anche per altri amici, però naturalmente erano persone conosciute. E, la cosa assurda è che poi mi ha cominciato a raccontare di una storia, insomma, che mi ha chiesto 4.000 euro, che naturalmente io non gli ho qual dato. Era, qual era la motivazione per questi 4.000 euro? Per il... guardi, è talmente... No, racconta, che... ormai... ti sentirei meglio dopo. No, io sto già bene, per me è passato. Mi diceva che doveva pagare una multa per l'invio di materiale bellico e che aveva sbagliato i moduli a compilarli e avrebbe dovuto pagare 4.000 euro lui di tasca sua e che i suoi soldi erano bloccati su un conto. Però era credibile, era, diciamo, meglio che... Vabbè. Comunque, io non gliel'ho mandati, ma a quel punto avevo capito che lui non era quello che si spacciava e gliel'ho anche detto, io ormai ho capito tutto, dimmi chi sei, giusto per curiosità, e sono andata avanti fino, guardi, a 2 settimane fa, sempre con la consapevolezza, insomma, che questa persona era un truffatore, e lui continuava a chiamarmi, continuava a dirmi ma io vengo. Quindi lui ha il suo telefono, anche il suo telefono. Sì. E ascolti questa perché è molto bella. a un certo punto io ho ascoltato a Rai 3, un'amica mi ha detto guarda che a Rai 3 alla trasmissione, chi l'ha visto ne hanno parlato, c'era il nome di un'associazione nel Piemonte che sono queste signore, casi, signore dell'acta. Ecco, perfetto. Io li ho contattati e ho anche fatto una denuncia su un sito francese del governo francese in accordo col governo della Costa d'Avorio. Ma lo sente ancora il suo Franca oppure no? No, ma la cosa assurda è stata che io ho chiesto a lui su Skype, gli ho detto guarda che siete stati scoperti, lo so che siete gente del Ghana, ho visto una trasmissione, ne parla tutta l'Italia. E lui che diceva? E lui mi ha chiamato e mi ha detto assolutamente non è vero, io non sono così, io non sono in che nero. Lingua parlate? In questo francese un po' sommario sempre. Sì. E poi per una ragione inspiegabile ho ricevuto su Skype un link di Google e c'era scritto Joel Lambert. Allora io ho cliccato e è uscito il collegamento su un sito americano di questo signore Joel Lambert, che è un giornalista, ex militare, ma giornalista, lavora per la televisione americana, e c'erano tutte le foto di questo. Ah, già aveva rubato le foto col profilo. Sì, me l'ha mandato lui, signor Nicoletti. Cioè lui o l'associazione per la quale lavora, me l'ha mandato lui il link. Ah, per farle capire l'aveva presa in giro. Sì. Quindi lei ancora pensa che c'è dell'amore in fondo? No, assolutamente. Magari, che ne so. Non ci ha fatto. No, lei adesso se lo rivedesse per strada lo prenderebbe a secchiate in testa, penso, no? Ma non credo proprio. Vabbè. Forse non lo guarderei neanche. Ci starà più attenta adesso. Nadia, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, niente, volevo raccontare un caso che è successo un mese fa a una mia conoscente, la madre di una mia cognata. Anni? 60, 61 anni credo che abbia. Sì, praticamente mi ha contattato lei chiedendomi dei soldi urgentemente, mi aveva chiesto 2000 euro, perché se non li mandava a delle persone, entro domani sarebbe stata arrestata. E niente, ho voluto sapere perché, chi sono queste persone, mi aveva raccontato che è un uomo molto, molto cortese, molto, non lo so, mi sembrava che fosse innamorata di lui. Cioè, e le chiedeva soldi anche quest'uomo? E le chiedeva soldi e gli aveva già mandato, lei mi ha detto 4.000 euro, però mi sa che erano molti di più. Se le 4.000 euro diciamo è il pacchetto iniziale per tutte, chiedono subito 4.000 euro, è il primo assaggio. Non so bene come, perché lei non so, mi sa che si comunque era entrata anche lei in una truffa amorosa e cercava in qualche maniera di recuperare chiedendole a me. Sì. Simona, sì. Simona, buongiorno. Buongiorno. Simona, Nicoletti. Ha qualcosa da aggiungere, qualche altro particolare rispetto a quello che abbiamo già detto, importante, no, per far capire a chi ci ascolta? Sto sentendo delle testimonianze che in pratica sono esattamente poi le storie che noi sentiamo. C'è un canovaccio non sempre identico, ma molto spesso è quello, che ha delle variazioni a seconda delle caratteristiche della vittima, e dopodiché ci sono tantissime cose da dire, ci sono tantissimi aspetti che ancora non siamo neanche riusciti a cogliere. Una cosa che scrivevo nella lettera... Simona è la signora che ci ha scritto la lettera per cui abbiamo saputo questo. Sono Simona Mani del Gigi, vicepresidente dell'ACTA. E in pratica non basta poco tempo per descrivere tutto quello che ci ma no, ma, no, ma noi ci torniamo, noi mica adesso, oggi abbiamo diciamo infatti, smosso un po' l'attenzione dell'ascoltatrice. Lei capisce che è difficile per una donna raccontarlo? Infatti, assolutamente sì, è difficilissimo. Quante richieste di aiuto avete avuto in Italia, più o meno? Centinaia di telefonate, ma la cosa che è più impressionante è che sono poche le persone che poi in realtà rimangono. Prendono il coraggio e magari si espongono. Diciamo che la maggior parte di queste donne contatta, cerca di sapere, di avere alcune informazioni, forse per rendersi conto di quella di quello che è il meccanismo. Preferiscono rimanere nell'illusione. Allora guardi Simona, e lo dico anche alla dottoressa Anna Pollaccia, io torno su questo argomento, diamoci 2 settimane, nel frattempo radunate le storie, le ascoltatrici di Melgo sanno che possono chiamare, ci chiamino, ci scrivano all'email melog@radio24.it, facciamo un'altra trasmissione didattica proprio per dare strumenti di difesa alle donne che cadono nelle trappole amorose. Non vergognatevi, l'amore è un è un grimaldello molto facile per entrare nella confidenza di una persona, sesso uomo, donna, animale da cortile, qualunque cosa. Alla prossima.